Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di imprenditori, parliamo di imprese, parliamo di un'Italia che deve crescere, che può trovare il sistema di crescere trovando ancora una forza imprenditoriale che ha sempre avuto e che potrebbe ancora avere e probabilmente ha ancora. Lo facciamo con Sandro Trento. Buonasera, professor Trento. Buonasera, buonasera. Sandro Trento, professore ordinario di economia e gestione delle imprese presso l'Università di Trento, dove dirige anche il CLAB, il laboratorio di imprenditorialità, e ha scritto insieme a Flavia Fagioni un libro che si intitola Imprenditori cercasi, innovare per riprendere a crescere, edito dal Mulino. Quindi un libro tutto dedicato all'imprenditoria, in cui si parla della trasformazione in atto, la trasformazione da un punto di vista tecnologico, ne parliamo spesso della rivoluzione tecnologica, ma di una trasformazione anche dal profilo di struttura delle imprese, e infatti il primo capitolo è dal capitalismo manageriale al capitalismo imprenditoriale. C'è questa trasformazione nella realtà italiana, Sandro Trento? Meno che altrove, diciamo la verità. Questa trasformazione sta avendo luogo soprattutto in altri paesi avanzati come gli Stati Uniti, ma anche la Svezia, Israele e così via. È una trasformazione che vede la dinamica dell'economia trascinata soprattutto dalla natalità di nuove imprese. Entrano nuovi imprenditori innovativi, quindi imprenditori che fanno dell'innovazione la strategia principale, imprenditori che hanno caratteristiche un po' diverse rispetto agli imprenditori tradizionali, quindi sono spesso imprenditori che hanno grandi competenze, capitale umano molto elevato, e che hanno grande capacità di utilizzare tecnologie anche già disponibili, non necessariamente tecnologie da loro messe a punto, quindi tecnologie già sviluppate e disponibili, ma combinate in maniera nuova rispetto a quella disponibile. E questi imprenditori spesso hanno una forte spinta verso la crescita, quindi uno dei motori di questa nuova imprenditorialità è l'ambizione a crescere in tempi rapidi. Ecco, è una nuova imprenditorialità che peraltro può contare su condizioni più favorevoli che in passato. Fare impresa è adesso più facile, richiede minori, quelle che si chiamano le immobilizzazioni tecniche, minori investimenti, le tecnologie sono alla portata di tutti, si possono realizzare delle cose anche rilevanti con poca spesa, quindi fare impresa è più economico, è più facile da un punto di vista anche finanziario, e questo potrebbe facilitare una realtà come quella italiana, dove si dice spesso, però magari poi è un luogo comune, che gli italiani sono più creativi, sono più imprenditoriali e sono più capaci appunto di creare piccole imprese. In fondo la realtà produttiva italiana è fondata sulle piccole o piccolissime imprese. Questo, diciamo, è un po' il luogo comune, no? È un po' la tesi che io trovo in parte non del tutto veritiera, cioè l'idea che l'Italia sia un paese ad alta vocazione imprenditoriale. Qui la questione è stabilire che cos'è un imprenditore, certo, davvero. Diciamo la verità, stiamo parlando di un tema molto complesso da affrontare, non è un tema di quelli a cui è facile rispondere con poche battute. L'imprenditore è un modo di pensare, è un modo di affrontare i problemi, è un modo di risolvere i problemi, e ancora non ci è chiaro se queste caratteristiche sono innate o possono essere acquisite, quindi c'è questa prima questione. Molti studi sembrano dire che la quota di imprenditori sulla popolazione è più o meno simile in tutti i paesi, quindi la quota di persone con talento imprenditoriale è più o meno la stessa. La differenza è come questa risorsa imprenditoriale viene utilizzata, in che modo, in che maniera, certo, in quale settori. E la mia sensazione è che in Italia molta dell'imprenditorialità finora abbia avuto una natura un po' replicativa. Replicativa significa che si tende ad entrare negli stessi settori nei quali siamo già presenti, quindi si entra nel settore delle calzature o delle piastrelle o dei mobili perché in quei settori ci sono tanti modelli da imitare, ci sono tante altre imprese, e quindi si tende a replicare prodotti e modelli già esistenti. In altri paesi invece la imprenditorialità ha una natura più innovativa, dove innovativa significa entrare in settori, prodotti e modalità molto diverse rispetto a quelle esistenti. La mia sensazione è che noi siamo deboli su questo fronte, quindi è vero che ci sono tante partite IVA, certo, per dire, ma molte di queste partite IVA in realtà stanno replicando cose che noi già facciamo. Cioè è più lavoro autonomo che non imprenditoria vera e propria in questa prospettiva. Esattamente. Io non parlo di innovazione necessariamente tecnologica. Cioè l'elemento interessante di questi anni è che l'innovazione può essere applicata in tutti i settori. Non è giusta l'equazione tecnologia-innovazione. E penso al fatto che molti settori nei quali l'Italia è presente, oggi sono oggetto di grandi trasformazioni. Pensiamo per esempio alla prenotazione nel sistema alberghiero, certo. No? E all'avvento di Booking.com e altri sistemi, altri portali, che di fatto stanno svolgendo un ruolo di vera rivoluzione in questi settori, cioè i margini per i nostri albergatori si stanno riducendo drasticamente perché una quota viene ad essere appropriata da Booking.com che di fatto sta monopolizzando il mercato mondiale. Pensiamo alla nascita di Airbnb nel settore del bed and breakfast, pensiamo a Uber nel trasporto cittadino, cioè l'innovazione può avvenire anche in settori tradizionali, non è detto che debba poter avvenire solo nei settori ad alta tecnologia, quindi c'è una grande opportunità, io la metterei in positivo dicendo c'è una grande opportunità, le nuove tecnologie consentono di fare innovazione anche in settori tradizionali. Dall'altro lato, la mia sensazione è che noi non stiamo approfittando appieno di queste opportunità. Certo, forse non è il momento migliore per aprire un'agenzia di viaggio, perché le agenzie di viaggio sono tra certo. Le cose che stanno appunto lasciando lo spazio ad altre iniziative. Magari in queste iniziative ci potrebbe essere il modo per entrare e per sfruttare anche delle tecnologie altrui. Ma c'è un altro punto che mi piacerebbe affrontare, che si ripete da anni che un modo per far crescere il paese, l'economia, è quello di fare delle imprese più grandi, delle imprese più forti e quindi sollecitare la fusione delle imprese, la creazione di reti. Mi sembra che dal libro emerga invece un'immagine di un sistema produttivo frammentato, è proprio questo il titolo di un capitolo del libro, cioè che si frammenta ancora di più invece che aggregarsi e raggiungere dimensioni medio-grandi per le imprese. Sandro Trento. Sotto il profilo dimensionale, questo è quello che ci dicono i numeri, cioè se guardiamo i dati dell'Istat scopriamo che effettivamente la dimensione media delle imprese è diminuita, non è aumentata. Quindi diciamo sotto il profilo della struttura dimensionale quello che registriamo è una frantumazione. Si è esteso il settore del lavoro autonomo e in generale si hanno strutture sempre più piccole. Dopodiché sono anche presenti fenomeni, come dice lei, di reti d'impresa e così via. Qui la questione, diciamo, in parte si ricollega anche alla natura della proprietà delle nostre imprese. Come tutti sappiamo, le nostre imprese per oltre l'85% sono a proprietà familiare. E questa, diciamo, è un punto di forza e un punto di debolezza. Un punto di forza perché chiaramente la proprietà familiare dà a un orizzonte di lungo termine, dà, diciamo, un commitment, un impegno di lungo termine. D'altro lato spesso rappresenta un ostacolo alla crescita dimensionale, questa è la sensazione che abbiamo, quindi debolezza e allo stesso tempo forza. Ecco, c'è anche un aspetto che mette lei in luce a conclusione del libro, che lo scenario italiano continua ad essere sostanzialmente poco favorevole, se non ostile alle imprese. Ci sono molti elementi, dal fisco ai costi burocratici, alla lentezza dei processi, anche all'incapacità delle università di rispondere alle esigenze della formazione, alla corruzione, ecco, tanti elementi che poi messi insieme costituiscono un grosso limite alla crescita delle imprese. Sono d'accordo, certo, questo è uno dei punti fondamentali, cioè uno degli aspetti, diciamo, dell'attività imprenditoriale è la capacità di assumersi rischi, no? L'imprenditore è un soggetto che, a differenza delle altre persone, è capace di assumere rischi e di gestire le decisioni in situazioni molto rischiose. La domanda che mi pongo è se in un paese come l'Italia il rischio ha una componente data dalle istituzioni, quindi non è un puro rischio economico, ma è un rischio nel quale interferiscono anche, per dire, i continui cambiamenti nella normativa fiscale, quindi c'è un'incertezza continua perché non sappiamo l'anno prossimo che tipo di imposte ci verranno inflitte. C'è una corruzione estesa e questo ovviamente accresce l'incertezza e il rischio percepito dall'imprenditore. La metterei ancora più in generale. L'impressione che ho è che fare impresa in generale in altri paesi è più correlata con il talento imprenditoriale di quanto non lo sia in Italia. Cioè, se io faccio l'imprenditore negli Stati Uniti ho più certezza sul fatto che se sono bravo otterrò profitti e dei risultati positivi. In Italia, date queste condizioni di contesto, c'è un rischio molto maggiore dato dal fatto che ci sono interferenze continue. La politica che interviene in continuazione sul mercato fa sì che i risultati dell'imprenditore non dipendano dal suo talento, certo, ma da condizioni di contesto, e questo ovviamente incide sulla propensione imprenditoriale dei giovani e delle persone. Ecco, un'ultima domanda, Sandro Trento. C'è molto interesse da parte estera verso le imprese italiane, molte anche grandi imprese italiane sono passate sotto il controllo di gruppi multinazionali. Lo considera un fatto positivo come stimolo per l'imprenditoria italiana? Allora, positivo sotto un profilo, nel senso che quello che fa bene a un paese è avere imprese gestite bene e valorizzate, quindi ben vengano investitori, dirigenti, imprenditori stranieri se questi sono più bravi a gestire e a valorizzare le imprese, perché in ultima istanza è questo quello che ci interessa. E d'altro lato però è un segnale del fatto che evidentemente bisogna cercare imprenditori, da qui il titolo del mio libro, cioè evidentemente nel nostro paese abbiamo pochi imprenditori capaci di assumersi l'onere di gestire imprese in difficoltà e di rilanciarle, quindi dobbiamo interrogarci su come mai nel nostro paese mancano questi soggetti e dobbiamo farle comprare da stranieri. Certo, dovrebbe essere questo uno stimolo anche agli imprenditori italiani, a quelli che ci sono, a quelli che possono essere, per riuscire a fare meglio, per veramente affrontare una concorrenza da cui si possono ricavare, certamente affrontando rischi, difficoltà e sfruttando le opportunità, ricavare anche delle soddisfazioni. Grazie, grazie a Sandro Trento di essere stato con noi questa sera. Lo ricordo, ha scritto il libro Imprenditori cercasi, innovare per riprendere la crescita, edito dal Mulino, sono 316 pagine e costa 24,50 euro. Ringrazio anche Roberta Frisani in regia, Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Grazie e buona domenica.